versione tibiotarsica, si chiama così. Ho copiato, Ma tu che ne sai? L'elemento importante è cosa fare dopo, perché bravo. Cioè, no, mi scusi, bravo. Bravo. So. Ma lo sanno anche i bambini. Anna. Buongiorno care amiche di che siete carissime. Parto per la luna, scelgo la fortuna di aver perso proprio te. Ma ci sarà uno slash di qualche stella bionda che mi porterà con sé. Faccio il salto. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Io vado in banca, stipendio fisso, così mi piazzo e non se ne parla più. Ma voi ci andate ancora in banca? Siete ancora legati allo sportello per le attività ordinarie di gestione del vostro denaro oppure vi recate in filiale solo in rare occasioni? Tu non ti ho fatto questo domandone prima dell'apertura della trasmissione? Io direi un po' e un po'. Un po' e un po', oggi partiamo proprio da questo. E raccontateci se siete anche voi del partito un po' e un po' come Nicoletta. Vi invitiamo a raccontarci all'800 24 00 24 se usate l'home banking o addirittura i nuovi, nuovissimi dispositivi mobili per gestire il vostro conto in banca. Se questo è il vostro caso, sappiate che siete in compagnia di circa 15 milioni di italiani, la metà dei correntisti, ormai abituati ad usare l'internet banking. Sono dati relativi al 2014, circa 5 milioni invece i nostri connazionali che accedono alla propria banca da smartphone, tablet e sono raddoppiati l'anno scorso rispetto all'anno precedente, quindi c'è un dato in evidente forte crescita. Nella prima parte di Cuore Denari ci chiederemo come sta cambiando questo mondo. Il denaro sta sparendo, si sta, per meglio dire, dematerializzando, e questo come cambia o potrà cambiare il nostro rapporto con i soldi e la loro corretta gestione? Diteci la vostra opinione al numero verde, raccontateci la vostra esperienza. È l'ultimo venerdì del mese e come d'abitudine torna Salute Uomo, l'appuntamento di Cuore Denari dedicato alla salute al maschile a 360 gradi, che ha proprio come obiettivo quello di invitare e soprattutto motivare l'uomo ad occuparsi del suo benessere e della sua salute. Il tema di questo mese sono i disturbi dell'umore. Secondo una stima dell'OMS, nel 2030... e quindi tra poco, ci siamo quasi, la depressione sarà la malattia più importante ed incisiva a livello mondiale. Colpisce le donne, è vero, in misura maggiore, ma anche gli uomini possono ammalarsi di depressione, e la tendenza tipicamente maschile a preoccuparsi poco o niente della propria salute, a minimizzare, nascondere, rimandare, a non avere il coraggio, lo metto tra virgolette, di chiedere aiuto, può avere conseguenze molto pesanti. In studio è già pronto il nostro Andrea Salogna, urologo di Salute Uomo, amico di Cuore Denari. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti, buongiorno. Abbiamo scelto questa volta, Nicoletta e Deborah, il tema della depressione, comunque del tono dell'umore deflesso, perché è fin troppo ovvio correlarlo purtroppo alla tragedia immane che alcune settimane fa ha riguardato mezzo mondo, e proprio perché gli uomini di questo poco parlano e poco sono abituati a chiedere aiuto e a farsi aiutare. 800 24 00 24 se volete già prenotare i vostri interventi. Il posto del contante nella nostra economia, nella nostra cultura e nella nostra mente. Potremmo farne a meno? Dovremmo? Sebbene è dalla nascita delle carte di credito che si parla di fine dei contanti, contro il denaro di carta e di metallo si sta coalizzando una serie di cambiamenti senza precedenti. La sfiducia verso le valute ufficiali, l'avvento di nuovi strumenti di pagamento, l'ansia per il debito pubblico, il trionfo dei telefoni cellulari, l'ascesa delle monete virtuali e alternative, le preoccupazioni ambientali e una marea di prove del fatto che il denaro fisico danneggia soprattutto i milioni di persone che ne hanno molto poco. Centrali che stampano senza sosta, eppure le persone hanno la sensazione di averne in tasca sempre meno. Ma i soldi stanno finendo, siamo nell'era del crepuscolo del denaro. È evidente che questa è una grande provocazione con la quale oggi vogliamo stuzzicare i nostri ascoltatori. Abbiamo certamente un grande problema di squilibri nella distribuzione e redistribuzione della ricchezza, un tema gigantesco che però noi oggi lasciamo all'analisi degli economisti. Poi da qualche anno stiamo vivendo una rivoluzione profonda che ha a che fare con l'avvento degli strumenti elettronici di pagamento, con il denaro di plastica, se con questo termine ci riferiamo a bancomat e carte di credito. Con le banche online facciamo sempre meno affidamento sugli sportelli bancari fisici, per non parlare poi di tutte le iniziative in corso per limitare quanto possibile l'uso del denaro contante, per scoraggiare e combattere una delle più gravi piaghe italiane, che è quella dell'evasione fiscale. Un preambolo lungo per arrivare oggi a raccontarvi di una iniziativa che è stata lanciata da qualche settimana dal gruppo Che Banca, la banca multicanale che oggi viene ribattezzata Fintech Bank, poi spiegheremo anche questo termine, è la banca multicanale, vi dicevo, del gruppo Mediobanca. E che è Futuro, il giornale online dedicato all'innovazione di cui Che Banca è editore. In sostanza è stata inaugurata la prima collana di libri interamente dedicata alla trasformazione dei servizi finanziari e alla digitalizzazione del banking. Ad aprire la serie, questo libro che si intitola The End of Money, La fine del denaro, di David Wallman, è un'opera che è un vero e proprio bestseller negli Stati Uniti, ora disponibile e tradotta anche in Italia. Magari se qualcuno farà il bravo con qualche osservazione stamattina interessante, potremo anche regalarlo. Chissà se è d'accordo il dottor Roberto Ferrari, direttore generale di Che Banca, collegato telefonicamente con noi questa mattina. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuto naturalmente. 800 24 00 24 è il numero verde a disposizione dei nostri ascoltatori per raccontarci, come anticipavamo prima, che rapporto hanno oggi con la banca, se hanno già fatto la conversione al mondo online, se lo sportello fisico è ormai diventato qualcosa che appartiene al passato, come è successo ad Andrea che ci racconta al 349 238 6666 dal 2002. Mai entrato in filiale, tutto online. Dottor Ferrari, musica per le vostre orecchie, direi, no? Tanti hanno scelto in questi anni di fare e compiere una scelta così radicale, direi, no? E oltre a un commento su questo, le chiedo anche naturalmente di raccontarci che cos'è, Che Futuro. Sì, il trend è, come lei ha detto, è quello comunque di un aumento dell'utilizzo dell'home banking e dei canali digitali, per cui è un trend molto forte in atto e chiaramente noi come Che Banca siamo tra i principali protagonisti, quindi confermo, sì, c'è una parte della popolazione che comunque ormai si sta abituando anche all'uso esclusivo di canali digitali quando si rapporta con la banca, con la propria banca. Tornando un attimino anche Futuro, che Futuro, come le ha detto, è un'iniziativa editoriale nata nel 2012 con l'obiettivo di creare uno spazio, diciamo, virtuale. Dottor Ferrari, la lascio schiarire un attimo la voce, forse sì, grazie. È il momento che io le venga in soccorso. Perché il medico noi ce l'abbiamo, ma in studio. Mannaggia, altrimenti, però insomma... Non riusciamo fino a lì, in assoluto. Dottor Salogna, come si comporta invece con il denaro? Nel senso, ha fatto questa conversione, preferisce lo sportello fisico un po'. O l'home banking? Anche lui è del un po'. Cartaceo con il papà che va a fare le cose al mio posto. Eccoci qua. Dottor Ferrari, ci siamo? Sì, grazie. Perfetto, papà. Grazie a lei. Allora, quindi stavamo parlando, insomma, di questa trasformazione che è venuta non in maniera, come dire, rivoluzionaria negli ultimi anni. Gli italiani si sono avvicinati con grande tranquillità alle nuove dotazioni tecnologiche che permettono appunto di velocizzare i rapporti anche con la banca, fino ad arrivare oggi ad un numero anche consistente di italiani che digitalizzano tutte le operazioni bancarie. Poi ci stava raccontando anche che cos'è, Che Futuro, questa vostra iniziativa. Che Futuro, esatto, la nostra iniziativa del 2012 con l'obiettivo di dare uno spazio editoriale virtuale dove si potesse parlare di innovazione in Italia, non di innovazione semplicemente nel mondo bancario, ma di tutta l'innovazione che può servire al nostro paese. Quindi noi siamo editori, ma di fatto lasciamo i contenuti assolutamente indipendenti e vogliamo proprio in realtà cercare di aiutare il dialogo e quindi lo scambio di idee su come questo paese possa migliorare nel mondo dell'innovazione, possa progredire. Benissimo, tra l'altro lo metteremo magari anche sui nostri profili dei nostri social network, così se i nostri ascoltatori volessero andare a dare un'occhiata lo potranno fare appunto più facilmente. 800 24 00 24, ribadisco, questo è il nostro numero verde per i nostri ascoltatori. Raccontateci se avete fatto il passaggio dallo sportello fisico alla banca diretta, perché e con che grado di soddisfazione da parte vostra, quali sono i servizi che preferite, le operazioni che fate online, in quali casi invece non rinunciate proprio ad andare allo sportello, oppure per voi proprio non è concepibile completamente l'uso dell'internet banking, perché non vi fidate, perché non riuscite a tenere a memoria i codici dispositivi per le operazioni. Insomma, le resistenze sono tante. E intanto, dottor Ferrari, proprio un paio di settimane fa l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, ha diffuso l'Identikit del cliente evoluto, lo chiama così, elaborato questo profilo in collaborazione con GFK e Eurisco. Giovane, età media 42 anni, un'istruzione elevata, 1 su 5 è laureato, fa di internet il suo stile di vita e tramite le nuove tecnologie ha la rete sempre a portata di mano. Utilizza però anche la filiale. Dottor Ferrari, vi corrisponde questo profilo? Direi di sì. Noi oltretutto abbiamo anche una clientela, essendo noi in primis una banca, diciamo, digitale multicanale, abbiamo una clientela che è spostata anche su una fascia un attimino più alta, se si vuole, dal punto di vista delle adozioni digitali. Per dare un'idea, noi oggi abbiamo oltre il 90% delle interrelazioni che avvengono tra il cliente e la banca in maniera digitale. Quindi 9 volte su 10 un cliente ci contatta attraverso dei canali digitali. Questo è il numero che abbiamo oggi. Però, diciamo, a livello di sistema complessivamente mi ritrovo con i numeri dell'ABI. Il cliente è evoluto, inoltre la metà dei casi possiede prodotti di investimento, il 63% di questo campione monitorato da GFK Eurisco alla carta di credito cerca servizi innovativi, si avvale in particolare dei servizi di mobile banking, inoltre il 40% dei casi per pagamenti o trasferimenti di denaro tramite smartphone o tablet o per controllare saldo e movimenti del conto corrente. Certo, oggi, dottor Ferrari, i dispositivi tecnologici permettono davvero di fare tutto, di controllare anche il conto corrente, se si sta facendo un viaggio in metropolitana, se si è in un luogo del tutto magari lontano rispetto ad uno sportello bancario fisico. Ci sono però anche molte persone che ancora non ci pensano neanche lontanamente ad avvicinarsi all'internet banking, non si fidano di poter fare le operazioni bancarie più diffuse e come dire, la resistenza è legata al fattore sicurezza. Cosa può dirci a questo proposito? È vero che c'è ancora una parte della popolazione che ha, diciamo, timore da questo punto di vista, però secondo noi siamo in una prima fase, la prima fase sta portando attraverso il mobile ad una forte adozione degli strumenti più digitali. Il mobile oggi viene utilizzato proprio per questi timori, più per guardare il proprio conto corrente, i propri saldi, i propri movimenti, piuttosto che per sviluppare e svolgere delle operazioni vere e proprie. Quindi su questo gli italiani sono ancora un po' prudenti, anche se chiaramente i numeri stanno aumentando significativamente. Quindi c'è ancora un po' di timore. Io devo dire che il sistema bancario italiano nel suo complesso è assolutamente uno dei più sicuri in Europa. Ogni volta che confrontiamo i risultati di frode dell'intero sistema bancario italiano sugli strumenti di pagamento con anche i trend internazionali eccetera, l'Italia esce sempre come un paese molto solido. Ecco, se c'è una cosa su cui onestamente le banche sono brave a fare è nel garantire la sicurezza. Non ci sono mai stati casi, sì, ci può sempre succedere, però se andiamo a guardare i grandi numeri, veramente stiamo parlando di pochissimi casi, e poi c'è tutta una tutela legislativa. Esattamente, se avviene qualche operazione non va a buon fine, c'è sempre un interlocutore con il quale ce la possiamo prendere. Se subiamo un furto del nostro portafoglio, diciamo che il contante che viene trafugato difficilmente riusciamo a recuperarlo. Però insomma, questo è oggetto sempre di grande dibattito fra i nostri ascoltatori, che stanno in tanti bussando alla porta. Certo, stanno chiamando il nostro numero verde, stanno mandandoci messaggi. Un ascoltatore ci scrive: ma per chi ha tutte le caratteristiche del cliente voluto ma non ha un soldo, che cosa proponete? Magari esatto, questo è un troveremo bel una tema, soluzione, una bella magia. Andiamo a Cuneo. Andiamo buongiorno a Cuneo. Fabrizio, buongiorno, grazie per la possibilità. Grazie a lei. Volevo raccontare, io da 5 anni ormai sono esclusivamente con una banca online e certamente non sono evoluto, ma mi sono dovuto documentare e comunque anche applicarmi un po', ma ce l'ho fatta e mi sono contentissimo. È ovvio che non c'è più il contatto, diciamo, fisico con la banca, ma non ho sentito questa mancanza, anzi mi trovo molto bene. L'unica cosa che mi sento di consigliare, io non faccio operazioni, vabbè, il consiglio mi sembra un po' esagerato forse, però io non mi sento di consigliare appunto le operazioni dallo smartphone. Io ritengo le operazioni bancarie importanti, quindi secondo me è brutto farle di corsa con lo smartphone. Io mi metto comodamente da casa al PC, allora certo, con tutte le attenzioni del caso. Io le assomiglio molto, Fabrizio, se questo può, come dire, in qualche maniera consolarle in questa scelta. Effettivamente anch'io troverei un pochino, poi ognuno può fare quello che vuole, un po' curioso che in metropolitana mi metta a controllare il conto corrente, no? Detto questo, appunto, magari la relazione con il nostro denaro va gestita in serenità a casa, sempre meglio che doversi prendere 2 ore di permesso dal lavoro per andare in banca per fare un semplice estratto conto o poche operazioni, per cui magari per chi proprio è tecnologicamente parlando molto resistente rispetto a queste novità, forse in realtà potrebbe valutare, dottor Ferrari, tutti i vantaggi di potersi mettere la sera tranquillo a casa e fare un piccolo monitoraggio, no, di quella che è la sua situazione bancaria senza doversi fisicamente spostare o, come dicevo prima, prendere permessi dal lavoro. I vantaggi sono questi, ma non solo. Ma diciamo che ormai la tecnologia e le piattaforme di software sono tali per cui stiamo rendendo tutto molto molto semplice. Noi quello che vediamo, ad esempio, faccio 2 esempi per dire su alcune cose semplici si possono fare senza proprio veramente problemi. Noi vediamo un alto numero di ricariche telefoniche che ormai vengono pagate attraverso il cellulare, direttamente attraverso le app che noi abbiamo. Questo è un trend molto forte che sta aumentando, così come vediamo che sta aumentando il trend del pagamento dei bollettini postali anche via cellulare, perché poi magari non si vuole fare la fila. Certo. e il software ormai a disposizione sono tali che ti consentono in realtà un'operatività molto semplice e gestibile, molto facile. Per non parlare poi di tutto il mondo dei micropagamenti che si sta muovendo in questo senso, no, dottor Ferrari? Quindi fra un po' andremo tranquillamente al bar con il nostro smartphone, pagheremo anche il caffè. Magari in Italia tutto questo avverrà con un po' più di ritardo rispetto ad altri Roberto paesi europei. Roberto da Torino ha comprato la macchina con bonifico da smartphone in concessionaria. Eccoci. Pensa qua, quanto è super evoluto lui. Infatti, dottor Ferrari, commentiamo anche questo caso? Sì, allora, anche qua, cioè sui bonifici non è una cosa particolarmente complessa, perché poi alla fine i software sono tali per cui ti consentono di fare dei bonifici ricorrenti attraverso lo smartphone, ti consentono di inserire dati ormai in maniera molto più semplice rispetto e comunque protetta, perché è vero che non è che devi farti un bonifico in metropolitana, ma se stai in ufficio e stai lavorando e hai urgenza di fare un bonifico, puoi usare il cellulare e comunque collegarti senza avere la folla intorno. Mm-hmm. Per cui secondo me ormai quello che noto, appunto, ci sono più, è più un problema di percezioni, cioè di passaggio. Beh, questo è un momento di trasformazione. Bravissimo, di passaggio, infatti. E quindi è chiaro che uno si deve adattare, deve capire. Poi la verità è, come anche ha detto il signore collegato, che una volta che provi ti rendi conto che in realtà le cose sono molto semplici e molto più tranquille di quello che uno pensava. C'è poi il grande problema di chi ritiene di non voler fare questo passaggio, questa evoluzione, rivoluzione personale e tecnologica, perché con l'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento pensa di non poter tenere sotto controllo tutte le spese che effettua, e lì si tratta allora semplicemente di mettere un pochino in moto un po' di inventiva personale, un po' di educazione finanziaria, teniamo da parte gli scontrini delle operazioni che facciamo, quando arriva il momento facciamo il conto. C'è chi invece proprio ha questa: ma come puoi pensare che mi tenga nel portafoglio tutti gli scontrini? Io non lo vedo come una cosa così difficile. C'è chi però ha proprio questo no radicale, questo muro di fronte a questo comportamento, questa abitudine. Sentiamo Paolo dalla provincia di Ancona. Sai che c'è un anconetano al giorno? Una connettana al giorno che noi salutiamo con grande piacere, siamo felici di essere un po' alla radio delle Marche. Io ti dico che però ci sarebbero anche i mercati, così tanto così, per buttarla dici? Lì. Lo sentiamo Paolo, veloce. Paolo, poi... un beep. Buongiorno. Buongiorno, Senigallia. Buongiorno. Guardi, lei senta, oggi ci casca proprio a pennello, poi Paolo le raccontiamo perché. Perché abbiamo il nostro professor Salonia che ha una grande passione per questa città. Ci dica. Perfetto, sono contento. Ho fatto nel 2000 la tesi di laurea sull'home banking e internet banking, quindi sono stato tra i primi forse ad approcciarmi. Però volevo descrivervi un'applicazione che sta diffondendosi adesso in Italia, si chiama WeApp, grazie alla quale io vado a fare spesa dal panettiere, dal negoziante, piuttosto che dal commercialista, dentista, e mi viene caricato un cashback come sconto sull'applicazione. Al momento, al raggiungimento di 50 euro, posso bonificare, ma da lunedì prossimo potrò pagare. Quindi, per assurdo, acquisto una camicia, mi fanno 5 euro di ricarica nel telefonino, in questa applicazione, esco dal negoziante, vado a prendere un gelato, pago 3 euro senza tirar fuori i soldi. Però ci deve essere un circuito di commercianti che è allineato, Paolo, oppure lei lo può fare indistintamente con tutti? No. C'è questo circuito che si chiama WeEconomy, è una multinazionale che lo ha diffuso in 24 paesi al momento, ha creato un suo telefonino, un suo iWatch per far concorrenza a Apple. Certo, allora Paolo, stiamo entrando in un mondo un po' più complicato. Noi la ringraziamo per averci raccontato questa novità, però dottor Ferrari, in 5 secondi poi magari approfondiamo, magari un posticino nel blog di Che Futuro, Paolo, lo dobbiamo mettere. Ah, sicuramente, noi mettiamo... Se non altro perché è di Senigallia, cioè è questo. No, però tutte le innovazioni rilevanti che troviamo hanno spazio, sicuro. Perfetto, allora magari creiamo questo link nel frattempo... Nel futuro volentieri, ma nell'immediato ci sono i mercati. Le borse, tra poco. Cuore e denari. L'umore può mutare anche nel corso della giornata, basta un contrattempo, un lieve malessere a metterci di cattivo umore per l'appunto, ma non basta, ci sono, lo sappiamo bene, periodi difficili in cui ci sentiamo demotivati, abbattuti, senza energie, periodi grigi in cui non c'è nulla che non vada effettivamente, ma nulla sembra andare per il verso giusto. È comune, di solito, anche se con fatica, questo malessere transitorio e come è arrivato se ne va, ma a volte è altro e mette radici, e nel corpo e nella mente di un uomo lo fa in modo particolare, con segnali specifici che spesso però vengono trascurati, taciuti, sottovalutati o malinterpretati. Parliamone, perché la depressione colpisce il corpo, l'anima e la volontà. Ne parliamo tra poco nel nostro appuntamento di Salute Uomo con Andrea Salonia, e tra poco ci raggiungerà anche un altro ospite. Le banconote e le monete sono i tesori della nostra infanzia che la fatina del dentino ci metteva sotto il cuscino, che una nonna adorante ci dava di nascosto e che riponevamo al sicuro in scatole colorate chiuse a chiave per poi comprarci un giocattolo nuovo. Nonostante la definizione piatta che del denaro danno i libri di testo, mezzo di scambio, unità di conto, riserva di valore, metodo di pagamento differito, è prima di tutto attraverso il contante che arriviamo in qualche modo a comprendere o a stabilire una relazione con questa invenzione, il denaro, che ha fatto evolvere la civiltà. La fatina del dentino e la nonna adorante, che belle immagini, Nicoletta? Che ci riportano alla nostra infanzia. Esatto, beh, anche quella dei miei nipoti, devo dire. Perché tu sei ancora una zia adorata. Allora, questo brano lo abbiamo tratto da The End of Money di David Wallman, e questo libro, questa indagine sul futuro del denaro, avvento e sopravvento di un mondo senza contanti, e è lo spunto per parlare oggi della banca multicanale, approfittando di un'iniziativa di carattere editoriale che è stata lanciata di recente dal gruppo Chebanca, la banca multicanale del gruppo Mediobanca, e Che Futuro, che è il giornale online dedicato all'innovazione di cui Chebanca è editore. Partita la prima collana di libri tutta dedicata alla trasformazione dei servizi finanziari, alla digitalizzazione del banking, e ad aprire la serie proprio questo libro che vi citavamo poco fa. Con noi stamattina Roberto Ferrari, direttore generale di Chebanca, e non vi dico quante telefonate e quanti sms sull'argomento di stamattina, perché dottor Ferrari, come ci aspettavamo, naturalmente anche fra i tanti ascoltatori, adesso ne sentiremo tanti che ci stanno raccontando cosa pensano sull'argomento, se hanno cambiato le loro abitudini, come, quando e perché. C'è anche naturalmente chi ci racconta che hai voglia di fare tutti questi cambiamenti, se però anche un po' il mondo del commercio non ci viene incontro. In molti utilizzano senza problemi carta di credito e bancomat, senza proprio parlare della digitalizzazione radicale delle operazioni bancarie, e però dice ancora, insomma, dicono in molti, il mondo del commercio non accetta volentieri che gli utenti, che i clienti paghino con le modalità, poi le chiamiamo nuove, ma non sono mica nuove, insomma, ormai sono diventate, sono entrate chiaramente nell'abitudine di tutti. Quindi, insomma, i passi in avanti non è che dobbiamo farli solo noi come utenti e consumatori finali, c'è tutto un meccanismo da mettere in moto, no? Che ne dice? Mi sa che hanno ragione. Probabilmente oggi in Italia l'ostacolo più grande che c'è ad una velocizzazione nella diffusione di questi strumenti è proprio nell'adozione da parte delle reti di retailing del commercio. Questo è il punto nodale. È cambiato molto anche lì, perché comunque, se pensiamo a com'era la situazione dei POS 10 anni fa rispetto a oggi, sta cambiando. Però se guardiamo a quanto sta succedendo nel resto d'Europa, nei paesi che normalmente a cui guardiamo su queste cose, ci rendiamo conto che l'Italia è ancora indietro. Quindi quello che loro notano è vero, c'è bisogno di uno sforzo, certo, maggiore. E questo è un po' anche legato a quel tema che così abbiamo proprio sollevato prima molto velocemente, il tema anche un po' dell'evasione fiscale. Diciamo che chiaramente tutto il tema della tracciabilità dei pagamenti è ampissimo e dovremmo forse affrontarlo in un'altra puntata, ma l'abbiamo già fatto spesso in passato. È un po' legato anche a quell'altra cosa che ci segnala un altro ascoltatore al numero verde, e dice: io mi stupisco sempre della lunghissima fila che vedo ai caselli autostradali, insomma, pur di non pagare non dico con il telepass, ma con una carta, la gente si imbarca di ore e ore di attesa per appunto pagare in contanti. E qui lo stesso, insomma, è un tema che richiederebbe una lunga riflessione. Riflessioni che facciamo fare invece ai nostri ascoltatori. Dove andiamo? Allora, io andrei anche la Toscana, qua vedo che vero, oggi io andrei prima a Livorno, sì? Da Alfredo, buongiorno, e poi sì, facciamo buongiorno. Un saltino a Pistoia, quindi Roberto stia pronto. Alfredo, buongiorno. Buongiorno, io volevo solamente come cliente di banca multicanale dare solamente un suggerimento per esperienza personale. L'efficienza è indiscutibile, e vorrei suggerire agli altri ascoltatori di verificare solamente questa particolarità, perché a volte si ha la sensazione di essere un po' lasciati soli quando si accede ai servizi bancari tramite canale internet, diciamo così. E l'unico suggerimento che permetto di dare è proprio quello di verificare che l'istituto su cui ci si affida e ci si appoggia preveda un'assistenza tramite numero verde. Certo. Perché molto spesso mi è capitato di avere invece altri numeri che sono a pagamento, e quindi vanificano buona parte dei vantaggi economici che una priorità bancaria online Benissimo. Può fornire. Alfredo, dall'esperienza si acquisisce consapevolezze. Mi sembra chiaramente un'ottima indicazione. Grazie. Dottor Ferrari, ha ragione Alfredo? Ma allora, le banche normalmente danno assistenza, quindi poi ognuno ha i suoi sistemi. Certo. Ormai ci sono anche sistemi di assistenza diretta senza neanche telefonare. Noi abbiamo sistemi via chat per cui i clienti possono, usando lo stesso home banking, direttamente chattare con un nostro operatore, per cui non c'è neanche bisogno di chiamare, per esempio. Però insomma è una modalità che prende atto dei cambiamenti che abbiamo attorno a noi. Ora quella modalità di comunicazione è la più gettonata, anche soprattutto fra la popolazione più giovane, per cui chiaramente si utilizza questo canale per dialogare e comunicare. Andiamo a Roberto. Eh sì, avevamo un appuntamento con lui, era già pronto. Era Roberto, buongiorno. Pronto. Ecco. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Ci dica tutto. Okay. Allora, io sono un fervido sostenitore del conto online da diversi anni e anche... Pensavo non so dicesse che... di cuore denari, era già partito così voi, no? Bene, ah, ecco. Carità, e mi cade ma... su così. No, no, anche di voi, ci mancherebbe, no. Anzi, giammai. Allora, vi dico anche che oltre a essere sostenitore di questo, anche delle assicurazioni, ve lo dico da ex promotore finanziario e da ex assicuratore, l'unico deterrente che a volte può anche a volte rendere un po' restie le persone... a accedere a queste forme di conto è anche quando si deve andare a versare dei soldi. Tante volte alcuni istituti si appoggiano a banche convenzionate, allora si deve andare ugualmente in banca. Fortunatamente da alcuni anni, e io l'ho provato, funzionano benissimo, ci sono anche degli istituti online che hanno messo dei bancomat evoluti, cioè a qualunque ora del giorno vai lì, metti contante, assegno senza problemi, funziona alla perfezione, viene lasciato ricevuta e tutto, e questo ti risparmia la fila in banca, perché comunque se vai anche nelle banche convenzionate tante volte, siccome non sono operazioni frequenti per il cassiere, a volte c'è un po' di l'operazione rallenta oltre è un po' farti più la coda. Sì, quindi ecco, diciamo che adesso si è ancora più snellito questo sistema, quindi Roberto, ma me... quante soddisfazioni ci state dando questa mattina, dottor Ferrari? Altro che evoluto, qua i nostri sono evolutissimi, ci stanno raccontando anche naturalmente le esperienze di chi ha qualche resistenza, ma devo dire che stamattina vince il partito di chi fa queste operazioni nelle modalità nuove senza alcun problema, quindi ne avete di materiale per il vostro blog, il vostro contenitore sull'innovazione. Sì, sì, ma osserviamo quello che stanno facendo gli italiani da tempo e devo dire che certe volte una delle frasi che dico io ogni tanto è: gli italiani sono molto più evoluti dell'Italia certe volte. Questo è un po'... Senta, io devo salutarla perché dobbiamo andare alla seconda parte del programma. Volevo solo togliermi una curiosità, perché voi la chiamate banca multicanale, oppure si può chiamare banca diretta, quella che permette di operare quasi esclusivamente o prevalentemente con il canale online. Perché voi la chiamate fintech bank? Fintech? Sì, perché diciamo l'evoluzione digitale sta portando alla creazione di tutta una serie di strumenti, software particolari, che tutto questo mondo, del nuovo mondo di come sarà il banking in futuro, viene chiamato oggi tecnicamente fintech. Fintech sta per finanziario tecnologico. Ah, ecco. Quindi è la banca che si digitalizza al punto tale da diventare essa stessa di fatto un'azienda tecnologica. Benissimo, e anche oggi abbiamo portato a casa anche noi nuove informazioni. Dottor Ferrari, grazie per la sua presentazione questa mattina, per il suo intervento. Se ci manda qualche libro di End of Money, naturalmente noi saremo ben felici di regalarne qualcuno ai nostri ascoltatori, perché ce li stanno chiedendo. Dove possono trovarlo, tra l'altro? Può essere scaricato in un ebook, adesso che mi ricordo. L'ebook store di La Terza, eccolo qua, la do io l'informazione. Esatto. Grazie, buon lavoro. Oh, grazie a voi, grazie a tutti. A presto. Buona giornata, adesso strade e poi disturbi dell'umore. E questo è il tema di Salute Uomo. 800 24 00 24, restate con noi, iniziate a chiamare. Cuore e denari. Dell'uomo che non deve chiedere mai. Ve la ricordate questa pubblicità? Per l'uomo che non deve chiedere mai. Bene, oggi invece parliamo di una malattia per la quale è molto importante chiedere per avere informazioni certe. Potete farlo all'800 24 00 24, ma chiedere soprattutto per ricevere aiuto. Parliamo di depressione, una malattia che non va taciuta, nascosta e soprattutto non va in nessun modo sottovalutata. Una malattia che non è una colpa, non è un'espressione di debolezza, è proprio una malattia come il diabete, può colpire chiunque, indipendentemente dall'età, dalla professione e dalla condizione sociale. Andrea Saloni ha scritto come ogni mese un bel editoriale sul male oscuro. Potete leggerlo sulla pagina di Salute Uomo e commentarlo. Andrea. Questa volta abbiamo proprio scelto, come dicevamo prima, una problematica che al maschile viene vista spesso come una colpa e purtroppo, lo dico da medico che non si occupa di parte psicologica, ma abbiamo chi meglio di me oggi lo affronterà questo aspetto, un elemento di grande importanza, di grande rilevanza, perché oltre ai segni fisici e alle problematiche che si riverberano anche sull'aspetto organico dell'individuo, questo viene ad essere particolarmente importante per tutti i risvolti che nella socialità un uomo affetto da depressione può avere. Ce lo ha ben insegnato la tragedia di German Wings di poche settimane or sono. E a me è piaciuto partire dal libro Il male oscuro di Giuseppe Berto, che ho molto amato per la grande innovazione nella modalità di scrittura e soprattutto dei contenuti, che per allora erano assolutamente dirompenti e credo che lo siano ad oggi. Allora, se state attraversando un momento particolarmente difficile, chiamateci 800 24 00 24. Se vivete accanto ad una persona che vi sembra cambiato, supponete, pensate che non ce la faccia ad affrontare un periodo difficile, oppure improvvisamente abbia mutato, abbia avuto dei cambiamenti, un disturbo dell'umore, siamo qua per voi. E soprattutto qua in studio con noi abbiamo il piacere di avere la professoressa Cristina Colombo, che è responsabile del centro dei disturbi dell'umore dell'ospedale San Raffaele di Milano e docente presso l'università Vita Salute San Raffaele. Grazie per essere con noi. Grazie dell'invito. Professoressa Colombi, i disturbi mentali sono tra le malattie più diffuse nella nostra società, diciamolo e prendiamone, no? E facciamoci i conti. Diversi studi dimostrano come nel corso della propria vita quasi un terzo delle persone dovrà fare i conti con un disturbo psichico. Però è importante sapere che le malattie mentali sono curabili e che tanto meglio lo sono quanto prima sarà ricercato e accettato un aiuto, che spesso tarda invece a venire richiesto per una serie di ragioni: la mancanza di informazione, la paura, il timore, la vergogna. Partiamo da qua, professoressa Colombo, e focalizzandoci in modo particolare sull'universo maschile. Quali sono le difficoltà che incontra l'uomo con disturbi dell'umore che gli impediscono di chiedere aiuto? Ma innanzitutto sono le difficoltà dei depressi. La depressione è una patologia, l'ha detto lei bene, diffusissima, ha un costo sociale incredibile, ha un costo diretto, economico, dal farmaci, medici, ospedalizzazioni, ha un costo indiretto, divorzi, separazioni, problemi con i figli, una serie di costi incalcolabili. È una patologia diffusissima e gli uomini sono colpiti in una maniera ridotta ma molto molto pesante. La depressione maschile è sempre molto grave e gli uomini fanno molta fatica a chiedere aiuto, molto più delle donne. Le donne vengono dallo psichiatra facilmente, gli uomini vengono trascinati di solito da una moglie, da una madre, da qualcuno che li convince a venire da noi, ma fanno veramente fatica ad ammettere questo problema. Noi oggi naturalmente parliamo di depressione al maschile. Hai notato, Deborah, che la professoressa Colombo ha sottolineato subito l'aspetto anche, no, del costo sociale, costo economico, certo, della depressione, ma noi ci rivolgiamo anche a tutto l'universo che ruota intorno all'uomo depresso. 800 24 00 24, professoressa, la depressione non è un male immaginario, una malattia reale che ha segni fisici e psichici, come anticipava Andrea Salonia, che colpisce quindi il corpo, l'anima e la volontà. A volte è reattiva, si manifesta cioè dopo un periodo particolarmente faticoso, stressante, penso ad un lutto, penso anche a un licenziamento, però può anche iniziare all'improvviso, no? Senza un apparente motivo. Quale di queste due situazioni è più frequente nell'uomo? Nell'uomo è più frequente quella senza apparente motivo, perché proprio perché si manifesta maggiormente come malattia. Non è una tipologia maschile quella di essere fragili, di reagire agli eventi in maniera con grande difficoltà e quindi di avere una sintomatologia depressiva, che per una donna può essere più frequente. Quindi la depressione reattiva non è così frequente nei maschi. 800 24 00 24, andiamo subito al primo ascoltatore che ci chiama, Massimo. Ci chiama da Bologna, Massimo, e al quale diamo il benvenuto. Eccoci qua, lei, Massimo. Pronto, sì. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, niente, io volevo chiedere, quindi appunto ai vostri esperti, volevo sentire. Io nel 2013 ho perso mia moglie, no? Mia moglie è deceduta. e io ho 60, adesso ho 61 anni, all'epoca ne avevo 60, mia moglie 59. E da quando è successa questa situazione qua, cioè praticamente io ci sono soprattutto le mattine, così, no? Non mi alzerei neanche da letto, io sono già in pensione, faccio qualche sacchino così, ma però sono in pensione, non mi alzerei neanche da letto, proprio non ci voglio fare niente. Io diciamo mi alzo per forza maggiore, nel senso che ho tutti e due i miei genitori che sono tutti e due disabili, perciò mi alzo perché devo accudire loro, devo fare delle cose loro, se no certo. Non mi alzerei mai. Però è strana la cosa, perché ad esempio quando io ho degli amici ottimi, eccezionali, che mi chiamano, andiamo fuori, andiamo a fare dei giri, beviamo la birra insieme, insomma, quando sono fuori me la passo, insomma, e quando sono casa. In casa, soprattutto di sera è una tragedia, non ci salto fuori, cioè, perché professoressa, grazie Massimo, grazie e anche per averci chiamato, per averci messo a disposizione la sua storia. Questo aiuta anche molte persone che magari non hanno il coraggio di intervenire, di parlare. Professoressa Colombo, Ha detto una cosa importante: quando esce con gli amici o qualcuno lo distrae sta meglio. Le persone che hanno subito un lutto, una perdita, hanno una sintomatologia depressiva reattiva che quindi è sensibile all'ambiente, sensibile al fatto che ci siano delle condizioni che migliorano, che cambiano, per esempio la compagnia per un uomo solo come lui, cosa che invece non capita affatto nella depressione malattia. La depressione malattia è resistente all'ambiente, non cambia niente se gli amici vengono a trovarmi, se cercano di tirarmi su di morale, anzi faccio ancora più fatica, mi rendo conto che sono inadeguato, che c'è qualcosa che non va in me, proprio perché neanche la presenza degli amici più cari mi serve. Andrea, in questa parte, in questa puntata di Salute Uomo, vorremmo naturalmente sentire anche il contributo, no? Come tuo, come andrologo, urologo. Partirei da un concetto che abbiamo ripetuto tante volte: la salute sessuale, intesa come efficienza, ma anche come soddisfazione, la cartina tornasole del benessere generale, non solo fisico, ma anche psichico. Molti disturbi della sfera sessuale non vengono portati all'attenzione del medico perché considerati come inevitabile conseguenza di un periodo particolarmente difficile, ma l'autodiagnosi non cura, possono essere delle spie molto utili. L'abbiamo detto tante volte, mi riallaccio a quanto la professoressa ha appena sottolineato: l'aspetto della reattività dei problemi e del trovare compagnia come modalità di cura, tra virgolette, o di aiuto, purtroppo nell'ambito della sessualità non è sempre vincente, e questo è un dato importante, ne chiacchiereremo successivamente, considerando soprattutto la salute sessuale, come abbiamo detto tante volte, barometro dello stato di salute generale dell'individuo. 800 24 00 24, subito dopo il GR, continuiamo a parlare di disturbi dell'umore al maschile. Cuore e denari. Siamo tornati insieme, oggi parliamo di disturbi dell'umore, di depressione in modo particolare, la decliniamo al maschile. Abbiamo detto che, facciamo un rapido assunto, la depressione è una malattia, può colpire tutti, non va tenuta nascosta, taciuta, e non bisogna averne paura. Voi ci state chiamando e quindi io vi invito a sfruttare questa opportunità, a togliervi un peso dal cuore, un dubbio, perché come scrive Andrea Salogna, quanto più si parla di un problema, pur se scomodo, disturbante o anche solo poco glamour, tanto più se ne possono meglio eliminare consciamente i connotati negativi, tanto più ci si possa aiutare e si possa aiutare a meglio capirlo. Andrea. Mi piace pensare che la scelta della canzone Ciao amore ciao di Tenco non sia banale, non sia assolutamente frutto del caso, e in questo coinvolgerei subito la professoressa Colombo. Abbiamo scelto Tenco perché la professoressa ci ha detto che la depressione è molto meno frequente negli uomini di quanto non sia nella controparte femminile, ma in quel caso particolarmente seria, severa, più grave probabilmente, e l'ideazione suicidaria, professoressa, lei mi corregga se io sono in errore, è forse più frequente proprio nel sesso maschile. Correggetevi tra voi, prof. Sì, è più frequente, soprattutto è più progettuale, perché l'ideazione di morte c'è nella depressione, in tutti i pazienti. Pensare al suicidio non c'è in tutti i pazienti, pensare a come farlo, grazie al cielo, ancora in meno. I maschi sono quelli più a rischio di avere una depressione grave, di non raccontarla, di non curarla, quindi entrano nella fascia di rischio massimo per il suicidio, anche perché loro sono già come sesso più a rischio del suicidio rispetto alle donne, si uccidono molto di più, quindi se mettiamo insieme i due rischi diventa veramente un problema. Professoressa Colombo, io vorrei che lei ci aiutasse a capire, perché ne parlavamo con Deborah fuori onda, a distinguere quello che è una tristezza, una mancanza di energia, di demotivazione, un vedere un po' le giornate grigie, un'infelicità. Io proprio questo termine me lo sono proprio appiccicato al cuore stamattina. Questa infelicità, ci sono uomini che si lamentano spesso, che no, sono, si trascinano dalla depressione, e così parliamo anche di sintomi fisici e di sintomi psichici per dare modo ai nostri ascoltatori di intercettare bene questa malattia. La depressione è una malattia, spesso e volentieri parte senza che ci sia una causa, non c'è niente che cambia, che ha cambiato qualcosa nella vita della persona. Una frase frequente del paziente è: la mia vita va benissimo e io mi alzo la mattina e voglio solamente morire e non sta succedendo niente, ho un lavoro, ho una bella vita, ho una famiglia, sto bene, ma io non vedo l'uscita, vedo tutto nero. I segni sono molto diversi da quelli dell'infelicità. Il paziente depresso è un paziente che è completamente appiattito, non si lamenta molto, ha a volte, soprattutto i maschi, delle manifestazioni fisiche che evidenzia, può avere mal di stomaco, segni gastrici, gastrointestinali, piuttosto che la sfera sessuale, esatto, può essere intaccata. Però diciamo che sostanzialmente quello che trasmette quando viene visitato è questa angoscia, un'angoscia del vivere che non è affatto legata all'ambiente, non si modifica. Anche se succede una cosa molto bella, il paziente depresso non solo non la rileva, ma la vede come un problema, non un altro problema. Andiamo ai nostri ascoltatori, vogliamo proprio partire dalle vostre domande. Deborah, dove andiamo? Andiamo, sentiamo una donna, sei d'accordo? Molto, Cinzia. Cinzia da Bologna, benvenuta. Salve, buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione, vi seguo spessissimo. Grazie, Cinzia. Grazie. Ci dica, Cinzia. Io non so bene cosa fare, perché mio marito è un paio d'anni che ha perso un po' la pulsione. Lui è sempre stato un po' infelice, un po', ecco, attratto dalle parti scure dell'essere, un po' cupe. Però da un paio d'anni appunto ha perso la pulsione e aspetta che passi. Aspetta che passi, quindi è in attesa. Come Andrea? La prima cosa che mi viene da pensare è il perdere la pulsione rispetto all'aspetto della qualità di vita e quindi della sessualità, o è più generale? Perché in questo senso trovo che i due ambiti, quello psichiatrico e quello mio di andrologo, si intrecciano perfettamente e forse devono intrecciarsi perfettamente. Cioè, in questo perché caso, un campanello, ci sono dei segnali che possono essere campanelli d'allarme, sì, per malattie che gestite, sì, con... Se pensaste solo al fatto che banalmente dall'urologo si va perché si hanno problemi nell'urinare. Si chiamano oggi complessivamente disordini nel basso apparato urinario. Ci sono pazienti che arrivano che hanno necessità di andare spesso in bagno di notte, di andare frequentemente durante il giorno, che hanno un'urgenza all'urinare. In quei soggetti è stato dimostrato abbastanza bene dalla letteratura e dalla clinica quotidiana come un malato su 10 possa avere un problema di depressione alle spalle. La stessa cosa nei problemi legati nella quotidianità agli aspetti di sessualità. Uno studio vecchissimo, mi ricordo ancora, di un grande americano siriano, e voglio sottolinearlo, Ridwan Shabsik, 20 anni fa circa, dimostrava come nei malati che arrivano per un problema di disfunzione erettile, 1 su 2 avesse un problema depressivo. Di deflessione del tono dell'umore, oggi la professoressa ci ha ben spiegato che esiste una differenza reale tra deflessione del tono dell'umore, infelicità e depressione maggiore, ma in quel caso le pulsioni venivano ad essere totalmente annullate. Immaginatevi come i soggetti che invecchiano abbiano correlati e contemporanei problemi di erezione, problemi nel far la pipì e problematiche di tipo deflessivo del tono dell'umore. In questo la combinazione delle competenze è fondamentale. Andrea, indicazioni, perché a Cuore Denari vogliamo informare ma poi anche orientare e invitare quindi gli ascoltatori, in questo caso parliamo agli uomini ma abbiamo bisogno sempre del sostegno delle donne, a diventare un po' protagonisti attivi della propria salute, esatto, della propria prevenzione, non a sempre delegare. Perché quindi Cinzia ha sottolineato proprio questo aspetto. detto suo marito aspetta che passi. Questo è fondamentale. La professoressa poco fa ha detto chiaramente che esiste la possibilità di un impatto estremamente negativo anche sul contesto familiare. Questo è un elemento secondo me ineliminabile, cioè molto spesso le donne sono promotrici di salute per i loro maschi e soprattutto in termini di sessualità lo sono una volta su due, sia in positivo, devo dire talvolta anche in negativo, ma il certo è il fatto che farsi aiutare diventa mandatorio. Il non vergognarsi diventa importantissimo. Questo l'abbiamo scritto, la professoressa l'ha detto prima, è un vero e proprio segno, sintomo di una malattia, non è certamente il fatto di essere depressi qualcosa che ci possa permettere di dire oggi ma domani non sarà. È anedonico, cioè è un appiattimento che merita un aiuto e non bisogna vergognarsi di chiederlo. Professoressa Colombo, stiamo dicendo che la depressione è una malattia. Parliamo spesso di fattori di rischio quando parliamo di malattia. Allora anche la depressione ha dei fattori di rischio o ci sono persone più predisposte che in presenza di alcune situazioni, condizioni, no? Vengono a vivere una condizione di depressione, quasi che ci fossero dei fattori che slatentizzano la depressione nelle persone che hanno una qualche predisposizione. La causa della malattia non è accertata. Quello che è accertato è che c'è una predisposizione familiare, c'è una componente, diciamo, ereditaria. Ereditaria è un aggettivo inadeguato dal punto di vista, diciamo, scientifico, però il concetto è questo. Quello che si eredita è la predisposizione ad avere la malattia, che poi può essere slatentizzata da una serie di eventi, da dei comportamenti anche anomali. Per esempio, il sonno ha una grande importanza nella depressione, è uno dei sintomi spesso iniziali. Il paziente depresso dorme male nella seconda parte della notte, mentre se uno agitato non si addormenta, fa fatica, non prende sonno, si sveglia. Il depresso va a dormire, si addormenta e si sveglia alle 3, alle 4 e ha quelle ore terribili di fine notte in cui i pensieri sono terrificanti. E questo aspetto è uno dei segnali, per esempio, che vengono identificati più facilmente. Me ne dica qualcuno proprio pescato nella vita quotidiana. Beh, l'appetito e il sonno sono tipici. Si perde peso, soprattutto da noi esistono delle forme atipiche in cui si mangia tantissimo e si dorme tantissimo, ma sono delle forme nordiche, quelle chiamate winter depression, quelle dei paesi che non hanno luce. La nostra non è tanto. Andrea ha sottolineato l'aspetto, no, della sfera sessuale. Mi piace collegarmi a quanto ha appena detto la professoressa. Immaginatevi che nella seconda metà della notte abbiamo il maggior numero di eventi di cosiddetto sonno REM, in corrispondenza dei quali abbiamo normalmente il maggior numero delle erezioni notturne, che guarda caso dal punto di vista biologico servono a preservare quanti qualitativamente la nostra stessa capacità erettile. Dormo male, peggioro anche quello. Si può curare. Sì. Ecco, quando parliamo di cura, sappiamo che ci sono tante persone che l'idea di andare, di prendere degli antidepressivi li allontana anche solamente dall'idea di recarsi dal medico, dallo psichiatra, perché sugli antidepressivi ci sono una serie di paure, timori, pregiudizi. Si può solo passare da lì oppure si possono anche evitare? Quali messaggi possiamo dare a delle persone che sanno, ad esempio, di attraversare questo periodo di difficoltà? Non chiedono aiuto perché si dice vado dallo psichiatra, mi dà le pastiglie, io poi rimango dipendente, mi cambia il cervello e tutte quelle sicuramente problemi che lei si sentirà raccontare anche nel suo ambulatorio. Infatti di solito non vanno dallo psichiatra, prima vanno dal neurologo, dallo psicologo, qualche volta dal medico di base, però diciamo resistono fino all'ultimo prima di piombare dallo psichiatra. La prima cosa è la depressione guarisce da sola, è una patologia ricorrente, si chiama depressione maggiore ricorrente, l'aggettivo ricorrente vuol dire che ritorna nell'arco della vita a distanza variabile di un anno, di 10, di 20, però che va sempre via, guarisce da sola. I farmaci, noi cerchiamo di spiegare al paziente che sono il modo per accelerare il decorso naturale della malattia. L'intervento farmacologico è minimo, serve solamente a proteggere il paziente dal rischio suicidario, dagli effetti collaterali, dal rischio di combinare pasticci con il suo lavoro, riducendo, diciamo, il decorso della malattia. Noi siamo un centro che oltre alla terapia farmacologica utilizza delle terapie non farmacologiche, utilizziamo degli altri attivatori della serotonina che sono la luce, usiamo tantissimo, applichiamo la luce ai pazienti tutte le mattine a secondo degli schemi, dei protocolli che usiamo da tanti anni. Da qui banalmente possiamo dire che adesso comunque la, esporsi un pochino di più, fare una passeggiata adesso per aiuta. Consigli no? pratici, per, sì, può, non è che cura se uno va a farsi una passeggiata al sole, ma aiuta sì. a tirare su un po' l'umore. È una patologia stagionale, quindi la primavera e l'autunno sono due brutti momenti, la primavera è un bruttissimo momento, è alta l'incidenza, mentre l'estate... Scusatemi, scusi, terapia con la luce poi? E poi la manipolazione del sonno, abbiamo detto che il sonno è uno dei trigger della depressione, andare a curare il sonno soprattutto nelle depressioni bipolari, sicuramente tutti sanno che esiste una forma di depressione che oltre ad avere la fase giù dell'umore ha anche la fase elevata dell'umore, è molto più ridotta rispetto all'altra, questa è diffusa nei maschi quanto nelle femmine e in quella forma la depressione si cura benissimo facendo stare sveglio il paziente, lo teniamo sveglio per 36 ore, ripetiamo questa operazione per 3 notti non di fila ma alternate ad una notte di sonno e spesso e volentieri riusciamo a farlo stare bene senza usare gli antidepressivi. Io credo che sia importante, io ringrazio la professoressa Colombo perché è riuscita a darci in modo chiaro e semplice degli aggiornamenti, delle indicazioni che fanno cadere anche molte paure, pregiudizi che tante persone hanno nei confronti di questa, lo ripetiamo, malattia che va diagnosticata e che si può curare. Questo andiamo è il messaggio nostri... secondo me più bello delle ultime frasi della professoressa, che la malattia si possa curare, trovo che sia quantomeno importante sottolinearlo. Allora andiamo dai nostri ascoltatori per... Aspettava Carlo da un pochino, da Chieti, per poi subito ritornare in Toscana come abbiamo fatto più volte stamattina con Alessandro. Carlo, benvenuto. Carlo, c'è? Sì, pronto. Eccolo, sì. Buongiorno Carlo. Ci dica sì. tutto. Vada. Io volevo parlare un attimo con l'andrologo, il dottore. Se c'è. Sì, è qua. Sono qua. Non... Allora, ecco. In parole povere, io avevo un problema, diciamo, sono intervenuto con un intervento chirurgico, corporoplastica e circoncisione. Volevo sapere, veramente... Volevo sentirlo prima un altro, ma mi sono talmente fidato del mio cosiddetto dell'urologo che sono passato direttamente all'intervento. E volevo sapere se innanzitutto se lui può darmi eventualmente sul mio cellulare qualche indicazione più precisa in merito eventuale, come lei sa già il dottore. Carlo, mi sembra che la sua richiesta sia un po' confusa sì. e magari troppo tecnica per, sì. per radio. Forse non è il caso di rispondere adesso. Sono certamente delle indicazioni molto precise, sono certo che il suo urologo che abbia competenze andrologiche chirurgiche possa aiutarla al meglio e mi permetto di suggerirle di andare da un andrologo chirurgo della sua zona sicuramente capace di aiutarla. E questo è lo specialista di riferimento. Sì. Passiamo ad Alessandro e con lui andiamo a Pisa. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a voi. No, io volevo parlare di quella che è stata la mia esperienza essendo studente universitario. Ho avuto l'anno scorso e mi è stata diagnosticata una depressione che per quanto leggera possiamo dire che si è fatta sentire. Più che altro mi sono sentito con la voglia di fare nulla, assolutamente, apatico, ho abbandonato i vari rapporti sociali. E un messaggio importante che voglio lasciare è dato dal fatto che, attenzione, anche in giovane età, ma soprattutto gli studenti universitari, tanti ne ho conosciuti come me, rischiano di entrare in questa turba psichica che... Grazie. Alessandro, grazie. Adesso tu, scusa, ti do del tu perché sei giovanissimo. Prego. Tu come ti senti? Uscito, guarito, ancora un po' a rischio? Sono indubbiamente ancora un po' a rischio, soprattutto per il carico di lavoro, essendo che studio e devo anche lavorare. Ragione per la quale sono a rischio, mi sento a rischio, mi sento debole spesso e volentieri, però ho trovato, come dire, ristoro in quello che è fare una cultura di me stesso, andare in palestra, ma anche studiare bene, capire bene le cose. Un po' Alessandro si è un po' ripreso, no? In mano, ha ripreso un po' in mano la sua vita. A volte uno non se lo augura, ma ci sono queste incursioni nella vita che non gradevoli, che però alla fine superate o affrontate risultano positive, perché Alessandro adesso si è ripreso un po' in mano, fa sport. Guardi, giusto? C'è stata una crescita all'interno del tutto. Certo, sono stato seguito da uno psichiatra, anche se Alessandro, volevo dare la parola alla professoressa Colombo, che dalla tua testimonianza può chiudere con un messaggio per i nostri ascoltatori. Professoressa. Grazie Alessandro, perché è proprio questo il messaggio, che dalla depressione si esce bene e si esce più forte. Tu hai detto che ti senti fragile, in realtà sei più forte perché hai imparato che cosa devi fare perché la tua vita sia più sana, perché tu stia meglio, quali sono le cose che sono per te importanti, e quindi questo aspetto secondo me alla fine ti servirà molto di più che non ad altri che non hanno passato questo brutto momento. Posso sottolineare un'altra cosa? Deve. La professoressa prima l'ha detto a chiare lettere, le persone tendono prima a rivolgersi a figure professionali che non sono quelle corrette, perché andare dallo psichiatra non significa andare dal castigamatti, significa andare dallo specialista del caso che ci aiuta, che è la persona preposta a farlo. E per noi maschietti, dove il cosiddetto debito di virilità risulta essere elemento estremamente importante, avere una figura che ci possa aiutare e riconoscere che quella è la figura corretta è, a mio avviso, importantissimo. Lo dico da uomo, lo dico da andrologo. Breaking news. Dunque abbiamo il sorteggio, abbiamo gli accoppiamenti per la Juventus e per Napoli e Fiorentina, il prosieguo delle coppe, le semifinali. La Juventus giocherà contro il Real Madrid la semifinale di Champions League, esattamente come l'ultima volta, che per i bianconeri fu nel 2003. Partita di andata in casa, partita di ritorno in trasferta. L'altro accoppiamento è ovviamente Barcellona-Bayern Monaco, 5-6 maggio, 12-13 maggio, queste le date delle gare. Mentre per quanto riguarda le due squadre italiane di Europa League, il Napoli prende un'altra squadra ucraina, come era successo ieri con la Fiorentina, prende il Dnipro, quindi l'atterraggio più morbido possibile. Per la Fiorentina ci sarà il Siviglia. Napoli in casa per la prima gara il 7 maggio, Fiorentina in trasferta per la prima gara 7 maggio sempre, data di ritorno il 14 di maggio. Questi gli accoppiamenti per le squadre italiane, naturalmente dopo ne parliamo. Deborina. Sì, allora, è stata una bellissima puntata, posso dirlo con grande soddisfazione per il nostro lavoro, per il tuo e soprattutto per il grandissimo impegno dei nostri ospiti su tutti i fronti, anche per come ci aiuta Andrea Salonia con Salute Uomo, un'operazione che sta andando avanti con grande consenso da parte dei nostri radioascoltatori e lettori, fruitori, diciamo, delle. Anche perché diciamolo, è stato proprio il primo progetto pensato, ideato, esatto, per la salute maschile, con un approccio, non mi piace il termine, ma olistico, che ci lo siamo bene. Detti più volte, sì. Quindi pagina di Salute Uomo, andate a visitarla, commentate. Esatto. C'è novità. Anche tutta la medicina narrativa, no? È un, sì. È un impegno. E ci saranno che magari tante novità, soprattutto in quell'ambito. Ottimo. Specifico. Quindi, professoressa Colombo deve tornare. Grazie. È stata sul campo, arruolata per una prossima puntata. Grazie. Allora, noi abbiamo terminato, adesso ci apprestiamo a vivere il nostro weekend, ma lunedì io non ci sono, vi lascio in ottime mani con quelle di Nicoletta Carbone. E martedì non ci sarò io. E ci passiamo e il testimone, d'altronde. E poi mercoledì di nuovo insieme. Grazie, buon weekend. Weekend a tutti.